tua scelta, tieni la stretta, più stretta. Affetta in decisioni col filo della lametta. Prendi ciò che ti spetta, te lo sei guadagnato. Del retta che ti rispetta per come sei sempre stato. Per chi non è scappato quando l'anima era sola, e per chi mi ha supportato e chi mi supporta tuttora. Del resto siamo liberi anche di volare via, lontano da mondi effimeri in cerca dell'alchimia. Perfetta sinergia per vivere un'utopia, ma sempre fedele alla solita compagnia. E per questo non mi muovo, per questo seguo un suono. Per questo se ci provi a fermare non resto buono. Solo un uomo, sì, senza vincoli e catene. Ma è solo grazie alla musica se sfondo ste barriere. Resto qua, nella città, assieme a tutta la mia storia, la mia vita, la mia gente, la mia libertà. È la mia scelta di sfruttare le opportunità, senza cambiare per avere qualche chance. E va bene così, come chi scappa dalla cella e gli strizzano le budella nella notte, sì. Noi siamo liberi, pago la sentinella e siamo liberi, liberi. Io non mi sono mai chiuso dentro me stesso. Non sono come te che sei sempre connesso. L'ho capito adesso, vuoi raggiungere l'immenso, hai già perso. Legge dell'universo. Sembriamo noi ma non ci conosciamo affatto. Intendo con chi c'è dentro, lontani l'uno dall'altro. Fumo e alcol, giusto per accontentarci, quando invece tutti assieme qua potrebbero salvarci. Le dipendenze per dividere in categorie, tipo sesso da una parte e tossici dall'altra. Chi mi parla? Al telefono sospetto. Chi mi guarda? Da quell'occhio maledetto. Aiuto. Perché qua non ti salva nessuno, e non parlo della mia città. Tutti schiavi già dal giorno uno, e il bello è che nessuno lo sa. Resto qua, nella città, assieme a tutta la mia storia, la mia vita, la mia gente, la mia libertà. È la mia scelta di sfruttare le opportunità, senza cambiare per avere qualche chance. E va bene così, come chi scappa dalla cella e gli strizzano le budella nella notte, sì. Noi siamo liberi, pago la sentinella e siamo liberi, liberi. Non sono complottista, al massimo un po' complesso. Non mi accompagna nessuno, non canto senza il complesso. Riavessi indietro tutti i soldi che ho scommesso. A quest'ora avrei un caseggiato immenso. Parla di libertà, chi di libertà non ne ha. E allora sta libertà dove sta? Forse chiusa dentro un ospedale in fila per il ticket. Oppure non lo so, ma non di certo in Tibet. Io sto con chi scrive, chi la vita l'ha affrontata. Chi gli è caduto il mondo addosso e non se l'ha menata. Perché è già tutto scritto, ogni singola cazzata. Parli di libertà, ma è libertà vigilata. Sì. Libertà di parola no, quindi cazzo parli. E tutti io le mie difeso no, quindi cazzo parli. Gli estremisti avanzano, non riescono a fermarli. Intanto Mometto piange in prima pagina sul Charlie. Resto qua, nella città, assieme a tutta la mia storia, la mia vita, la mia gente, la mia libertà. È la mia scelta di sfruttare le opportunità, senza cambiare per avere qualche chance. E va bene così, come chi scappa dalla cella e gli strizzano le budella nella notte, sì. Noi siamo liberi, pago la sentinella e siamo liberi, liberi. Resto qua, nella città, assieme a tutta la mia storia, la mia vita, la mia gente, la mia libertà. È la mia scelta di sfruttare le opportunità, senza cambiare per avere qualche chance. E va bene così, come chi scappa dalla cella e gli strizzano le budella nella notte, sì. Noi siamo liberi, pago la sentinella e siamo liberi, liberi.